Capitolo 9. Nelle settimane che seguirono i vergognosi fatti di Buckingham Palace, il governo fece gli ultimi, disperati sforzi per disintegrare la WSPU, per eliminare tutte le leader e per distruggere il nostro giornale, The Suffragette. Fece mettere dei mandati di comparizione per la signora Drummond, la signorina Dacre Fox e la signorina Grace Rowe. Saccheggiò il nostro quartier generale alla Lincoln House, fece due irruzioni nelle nostre basi temporanee, per non parlare delle incursioni nelle case private, dove le nuove leader, nominate per prendere il posto di quelle in stato d'arresto, lavoravano per l'organizzazione. Ma con i successivi attacchi, il disturbo che il governo riusciva a creare alla nostra attività fu minore, perché noi diventavamo sempre più abili di volta in volta a farvi fronte. Ogni tentativo del governo per sopprimere The Suffragette fallì e il giornale seguitò a uscire regolarmente tutte le settimane. Anche se il giornale veniva regolarmente stampato, dovevamo mettere in gioco un'energia sovrumana per distribuirlo. Il governo mandò a tutti i nostri grossisti una lettera concepita proprio allo scopo di terrorizzarli e costringerli a non smerciare il giornale e a non venderlo alle singole edicole. Temporaneamente la lettera produsse in molti casi l'effetto desiderato, ma noi affrontammo l'emergenza instaurando un sistema distributivo basato sul coinvolgimento delle donne stesse, indipendente dal consueto meccanismo di categoria. Aprimmo anche un fondo in difesa delle suffragette per gestire le spese extra di pubblicazione e distribuzione del giornale. Per due volte ancora il governo tentò di obbligarmi a scontare la pena di 3 anni ai lavori forzati. Un arresto ai miei danni fu eseguito mentre venivo portata a un raduno con un'ambulanza. Tutti gli arresti e gli scioperi della fame si verificarono nello stesso periodo, ma le nostre donne continuarono il loro lavoro di attiviste e il denaro affluiva nel nostro fondo di difesa e protesta. A una grande assemblea di luglio il fondo fu incrementato di circa 16.000 sterline. Poi cominciarono ad apparire inequivocabili segni che la nostra lunga e dura battaglia stava volgendo al termine. L'ultimo ricorso del governo all'incitamento delle bande di strada contro di noi era andato quasi a vuoto e vedevamo nell'atteggiamento del pubblico la speranza che la reazione contro il governo, tanto sperata da noi, era effettivamente iniziata. Ogni singolo giorno dell'attivismo militante fu così straordinariamente ricco di eventi e cambiamenti che mi resta difficile scegliere un punto verso cui portare a conclusione questo racconto. Ritengo tuttavia che un recente dibattito svoltosi alla Camera dei Comuni potrà dare al lettore l'idea del totale fallimento degli sforzi del governo per annientare la lotta delle donne per la libertà. L'11 giugno, quando la Camera dei Comuni era riunita in commissione di supplenza, Lord Robert Cecil propose una riduzione di 100 sterline per il voto del Ministero degli Affari Interni, accelerando in questo modo la discussione sulla militanza. Lord Robert disse che aveva letto con qualche sorpresa che il governo non era insoddisfatto dei provvedimenti adottati contro i suffragisti violenti. E aggiunse con una certa severità che il governo era assai più ottimista sulla questione di chiunque altro in tutto il Regno Unito. La Camera dichiarò ancora a Lord Robert non era nella posizione di occuparsi del caso in modo soddisfacente, a meno che non prendesse atto della devozione dei seguaci ai loro leader, che erano quasi interamente responsabili di quello che stava succedendo. Grida ministeriali salutarono con favore questa affermazione, ma cessarono subito quando l'oratore proseguì, dicendo che queste leader non avrebbero potuto in alcun modo indurre il loro seguace a intraprendere una carriera criminale, se non fosse stato per i gravi errori che erano stati commessi ripetutamente dal governo. Tra questi errori, Lord Robert citò il vergognoso trattamento riservato alle donne nel Black Friday, la pratica dell'alimentazione forzata e lo scandalo del diverso trattamento concesso a Lady Constance Lytton e a Jane Wharton. In questo caso si alzarono urla di disapprovazione, che si udirono nuovamente quando Lord Robert deplorò il tremendo spreco di energia e di mirabile materia impegnato nel movimento militante. Anche se Lord Robert Cecil riteneva ingiusto quanto inutile che i parlamentari suffragisti negassero il loro appoggio al movimento suffragista femminile a causa dell'attività militante, lui stesso era favorevole alla deportazione delle suffragette. Al che si sentì gridare: "Dove? E Ulster?" Il signor McKenna ribadì all'inizio, richiamando l'attenzione sul fatto che con il movimento militante si era assistito a un fenomeno assolutamente senza precedenti nella nostra storia. Donne in gran numero commettevano reati, a cominciare dalla rottura delle finestre per continuare con gli incendi dolosi, non con le motivazioni dei criminali comuni, ma con l'intento di propagandare una causa politica e di forzare l'opinione pubblica ad appoggiare le loro rivendicazioni. McKenna proseguì affermando: il numero di donne che compiono reati di quel genere è molto ridotto, ma il numero di quelli che simpatizzano con loro è assai esteso. Una delle difficoltà che la polizia incontra nel rilevare questa forma di reato e nel trionfare sui criminali è che gli stessi criminali trovano così tanti simpatizzanti fra le casse agiate e rispettabili che diventa relativamente impossibile amministrare la legge in modo ordinario. Permettetemi di riferire alla Camera qualche cifra che dimostri quante donne sono state rinchiuse in carcere per oltraggio da quando è iniziata l'agitazione militante nel 1906. Quell'anno il totale delle carcerazioni fu di 31 e tutte le persone detenute erano donne. Nel 1909 il numero salì a 156, nel 1911 a 188, 182 donne e 6 uomini. Nel 1912 a 290, 288 donne e 2 uomini. Nel 1913 la cifra scese a 183 e finora quest'anno siamo a 108. Queste cifre comprendono tutte le carcerazioni e i riarresti eseguiti in base al Cat and Mouse Act. Qual è la semplice lezione che se ne può trarre? Fino al 1912 il numero dei reati accertati per cui è prevista la pena del carcere era in costante crescita, ma dall'inizio dello scorso anno, vale a dire da quando è in vigore la nuova legge, il numero dei reati individuali si è considerevolmente ridotto. D'altro canto, è facile constatare che la gravità dei reati è molto più grande. Questa affermazione, cioè che il numero delle carcerazioni era diminuito da quando era stato adottato il Cat and Mouse Act, era evidentemente sbagliata o quantomeno fuorviante. Il fatto è che il numero delle carcerazioni era diminuito perché mentre prima le militanti andavano volentieri in galera per le loro azioni, adesso evitavano la prigione ogni volta che potevano. Un numero relativamente piccolo di mouse era stato riarrestato dalla polizia. McKenna continuò dicendo che era pienamente conscio del crescente senso di indignazione contro le militanti suffragiste e aggiunse: la loro unica speranza, giusta o sbagliata, è che l'indignazione dell'opinione pubblica si ripercuota sulla testa del governo. E così sarà, gli fece eco una voce. Il mio onorevole amico, ribatté McKenna, dice che sarà così. Io credo che si sbagli, ma non spiegò perché lo credeva. Il riferimento a quello che definì le recenti indecenze che sono state compiute contro il re, McKenna disse: è vero che tutti i sudditi hanno il diritto di petizione a Sua Maestà, ammesso che la petizione sia presentata in termini rispettosi, ma i sudditi in generale non hanno alcun diritto di essere ricevuti in udienza personale allo scopo di presentare la petizione o altro. È compito del segretario di Stato di inoltrare tutte le petizioni al re e inoltre di consigliare Sua Maestà sulle azioni da intraprendere. È quindi ridicolo che qualsiasi suffragista asserisca che il re, rifiutandosi di ricevere la delegazione sul consiglio del segretario di Stato, abbia violato la correttezza costituzionale. Inoltre, disse McKenna, in considerazione del fatto che la richiesta di udienza privata fu presentata da una persona condannata ai lavori forzati, cioè io, il segretario di Stato aveva il dovere di consigliare il re di non accoglierla. Tirava in ballo l'incidente, disse, solo perché era indicativo dei metodi usati dai militanti per promuovere la propria causa. Dava loro credito, fu costretto ad ammettere, per un certo grado di intelligenza con cui applicavano i propri metodi. Nessuna azione ha portato loro tanta pubblicità quanto le recenti assurdità perpetrate nei confronti del re. Venendo poi alla questione dei metodi per fronteggiare e dominare le militanti, McKenna disse che sull'argomento aveva ricevuto una quantità quasi illimitata di lettere da ogni settore dell'opinione pubblica. Sono stati suggeriti quattro metodi. Il primo consiste nel lasciarle morire, ben detto, e questo direi che al momento è il più popolare, risate, a giudicare dalle lettere che ho ricevuto. Il secondo è deportarle, ben detto. Il terzo è trattarle come delle pazze, ben detto. E il quarto è dar loro il diritto di voto. Ben detto e risate. Io penso che sia una lista esauriente. Noto che ognuno di questi metodi è stato ricevuto con una moderata quantità di applausi in questa Camera. Spero di poter fornire la ragione per cui al momento penso che non dovremmo adottare nessuna di queste misure. Il primo suggerimento era solitamente, ma non sempre, basato sulla supposizione che le donne assumerebbero il cibo se sapessero che l'alternativa è morire. In opposizione a quel punto di vista, McKenna lesse alla Camera l'opinione di un grande esperto della medicina che aveva avuto fin dal principio una approfondita conoscenza delle suffragette. Dobbiamo fare i conti quindi col fatto che sarebbero disposte a morire, proseguì McKenna. Posso dire inoltre, per l'esperienza personale che ho maturato nel trattare con le suffragiste, che in molti casi rifiutavano cibo e acqua, si sono spinte oltre il limite umanamente possibile e hanno fatto tutto quello che potevano per dimostrare di essere pronte a morire. Ci sono alcuni che sostengono un'altra logica. Pensano che dopo uno o due decessi in carcere la militanza cesserebbe. A mio giudizio ne resterebbero tremendamente delusi. Ammetto senza difficoltà che questo è uno dei punti su cui non transigo e per cui sento che combatterei fino alla fine contro quelli che sarebbero disposti ad adottare la strategia di lasciar morire le detenute. Peraltro, non solo non metterebbero fine alla militanza, ma anzi, sarebbe il più grande incentivo alla militanza che si possa immaginare. Per ogni donna che muore, ce ne sono tante altre che si farebbero avanti per avere l'onore, come dicono loro, di guadagnarsi la corona del martirio. Come fate a saperlo? Chiese un membro dell'opposizione. Come lo so? Rimbeccò il segretario di Stato. Ho avuto a che fare con queste donne più dell'onorevole parlamentare, molto di più. Coloro che sono di quell'opinione non provano neanche a comprendere la natura di queste donne. Non sto dicendo che ho stima di loro, sono delle fanatiche invasate, ma insieme a quel loro esaltato fanatismo hanno un coraggio, parte integrante del loro fanatismo, che non le ferma davanti a niente. E l'onorevole parlamentare che pensa che non andrebbero avanti, non solo rischiando la morte, ma gettandovisi addosso per sostenere quello che ritengono essere la causa più importante del mondo, fa a mio giudizio un grosso errore. Loro darebbero la vita e sono sicuro che per quanto oggi l'opinione pubblica possa essere favorevole a permettere loro di morire, qualora ci fossero 20, 30, 40 o più morti in prigione, si scatenerebbe una violenta reazione dell'opinione pubblica. E l'onorevole gentiluomo che adesso dice con disinvoltura lasciatele morire, sarebbe tra i primi a incolpare il governo per quello che lui stesso definirebbe il comportamento disumano che ha adottato. Quella linea politica non potrebbe essere conseguita senza una legge del Parlamento. Per le ragioni che ho esposto, io non ho chiesto al Parlamento di levare ai funzionari del carcere la responsabilità che hanno tuttora di fare del proprio meglio per tenere in vita le detenute. Ma supponendo che questa responsabilità legale venga rimossa dai funzionari della prigione, gli onorevoli parlamentari provino a immaginare di trovarsi in una cella carceraria e di essere nei panni di un dottore della prigione, un essere umano, che è lì fermo a osservare una donna che muore lentamente di fame e di sete, sapendo che può aiutarla e che può mantenerla in vita. Pensano davvero che qualsiasi dottore possa continuare la sua azione? O che noi saremmo in grado di trattenere i medici al nostro servizio se fossero costretti a operare in tali condizioni? Io non lo penso. Il dottore penserebbe, come penserei io se avessi davanti una donna in questo stato, quale oltraggio ha mai compiuto questa donna? Può aver ostacolato la polizia, oltre ad aver dimostrato un'ostinazione derivante dal suo fanatismo che l'ha portata a rifiutare acqua e cibo. Ha fatto resistenza alla polizia e deve morire. Io non potrei decidere in maniera discriminante e nessun segretario di Stato potrebbe mai farlo, che questa donna debba essere lasciata morire e quell'altra no. Una volta che abbiamo intrapreso la politica di lasciarle morire, se lo facessero rifiutandosi di assumere cibo, dovremmo andare fino in fondo e avremo una donna dopo l'altra, il cui solo crimine potrebbe essere stato quello di aver ostacolato la polizia, rotto una finestra o anche aver dato fuoco a una casa vuota che muore perché è ostinata. Non credo che questa linea politica si possa mai proporre al popolo inglese e per quanto mi riguarda dico che non potrei mai sostenere l'attuazione di una tale politica. Applausi. Il rimedio della deportazione, il preferito di Lord Robert Cecil, fu liquidato da McKenna sulla base del fatto che significherebbe soltanto spostare il problema in qualche altro paese oltre alla Gran Bretagna. Se la suggerita isola deserta e remota fosse concepita come una prigione, le donne farebbero lo sciopero della fame come lo facevano nelle carceri inglesi. Se l'isola non fosse trattata come una prigione, i ricchi amici delle suffragette andrebbero a liberarle con i loro yacht. Anche la proposta di trattare le militanti come delle pazze fu liquidata come inattuabile, confessando di aver tentato di farle certificare come pazze e di aver fallito perché la professione medica non consente un tale percorso. McKenna disse che lui non poteva, contro il giudizio dei dottori, ottenere la certificazione per decreto parlamentare. Resta, disse McKenna, l'ultima proposta, cioè che potremmo concedere loro il diritto di voto. È quella giusta, esclamò il signor William Redmond, ma il segretario di Stato replicò. Qualsiasi cosa si possa dire sui meriti o i demeriti di quella proposta, non posso evidentemente discuterla qui in commissione di supplenza. Io non sono responsabile in qualità di segretario di Stato dello stato della legge sul diritto di voto. E neppure c'è un'occasione in cui io possa esprimere o nascondere le mie opinioni sul tema. Ma certamente non penso, e sono sicuro che la Commissione sarà d'accordo con me, che quella proposta possa essere presa seriamente in considerazione come un rimedio per l'attuale stato di illegalità. Giungendo infine alla parte costruttiva del suo discorso, McKenna disse alla Camera dei Comuni che il governo aveva in serbo un'ultima risorsa, che consisteva nel procedere legalmente contro i sottoscrittori dei fondi della WSPU. I fondi della società, disse, erano senza dubbio al di fuori della portata della legge britannica, ma il governo contava di fermare le sottoscrizioni future. Non disperiamo, concluse, di raccogliere le prove che ci consentiranno di procedere contro i sottoscrittori di un processo civile. Grandi applausi. E se ci riusciamo, i sottoscrittori dovranno rispondere personalmente del danno arrecato. Applausi. Dipende solo dalle prove. Ho inoltre disposto che si valuti se i sottosegretari potranno essere perseguiti penalmente oltre che civilmente. Applausi. Siamo stati in grado di raccogliere queste prove grazie alle nostre non infrequenti incursioni negli uffici e in altre proprietà dell'associazione. Un anno or sono fu effettuata un'incursione negli uffici della società, ma non trovammo alcuna prova utile. Se riusciamo a far sì che i sottoscrittori abbiano la responsabilità personale individuale dei danni compiuti, non ho dubbi che le compagnie d'assicurazione seguiranno prontamente l'esempio dato loro dal governo e una alla volta si attiveranno per recuperare i costi che hanno dovuto affrontare finora. Se questo avviene, non ho dubbi che i giorni della militanza siano finiti. Le militanti vivono unicamente delle donazioni delle donne ricche, applausi, le quali godono dei benefici della ricchezza assicurata loro dal lavoro altrui, applausi, e sfruttano la loro ricchezza contro l'interesse della società, finanziando le loro sfortunate vittime perché si sottopongano agli orrori dello sciopero della fame e della sete dopo aver commesso un crimine. Quali sentimenti possiamo avere noi contro le sventurate donne che una settimana fa per 30 scellini e 2 sterline hanno incendiato e distrutto in tutto il paese? Quali sentimenti dobbiamo provare per le donne che investono il loro denaro per indurre a perpetrare questi crimini e lasciano che le loro sorelle subiscano la punizione mentre loro vivono nel lusso? Applausi. Se possiamo vincere su di loro, non ci dobbiamo risparmiare. Se la nostra azione riuscirà a distruggere alla fonte le entrate della Women's Social and Political Union, assisteremo alla fine del potere della signora Pankhurst e delle sue amiche. Applausi. Nel dibattito generale che seguì, il governo fu costretto ad ascoltare molte critiche severe sulla sua politica passata e presente nei confronti delle donne militanti, che Reardy disse, tra l'altro, possiamo anche non discutere oggi la questione del diritto di voto, ma sicuramente il segretario di Stato, senza trasgredire alcuna regola della Camera, avrebbe potuto portare un raggio di speranza per il futuro riguardo alle intenzioni del governo su quella che resta una questione della massima urgenza. A tale proposito, posso dire che non sono tra quelli che credono che un giusto diritto debba essere negato, perché alcuni dei suoi fautori ricorrono ad armi che noi non approviamo. Quell'appunto è stato fatto più di una volta, e se è vero, ed è vero, che una parte dell'opinione pubblica è fortemente contraria a questa condotta, è altrettanto vero che gran parte della gente guarda con espressione calma e indifferente a ciò che sta succedendo, fintanto che il voto sarà negato alle donne. Il signor Erdi concluse lamentando il fatto che la Camera, anziché discutere del suffragio delle donne, sta dibattendo sui metodi per sanzionare le militanti. Il signor Rupert Gwin disse: «Nessuno si trova in una posizione più assurda di coloro che siedono ai posti del tesoro. Non possono fare discorsi alle riunioni o andare alla stazione ferroviaria o addirittura prendere un taxi senza avere al loro fianco dei detective. Anche se a loro sta bene così, a noi, il pubblico, no, perché siamo noi che dobbiamo pagare». Non vale la spesa richiesta avere un gruppo di detective al seguito dei ministri del consiglio dovunque vadano, tanto per affari pubblici quanto per quelli privati. Inoltre, se il segretario di Stato dice bene quando afferma che queste donne sono pronte a morire e anzi cercano la morte pur di reclamizzare la loro devozione alla causa, lui pensa davvero che si preoccuperebbero se i loro fondi venissero bloccati? Un altro amico dei suffragisti, il signor Wedgwood, disse: "Siamo alle prese con un problema che è effettivamente molto serio. A mio parere, quando si ha contro una consistente fetta dell'opinione pubblica e un gran numero di persone che sono disposte a fare qualsiasi cosa, c'è solo una soluzione disponibile per una Camera dei Comuni che si rispetti, e cioè valutare molto attentamente se le lamentele di chi si lamenta sono non giustificate. Noi non siamo giustificati ad agire nel panico. Il nostro dovere è di considerare il bene e il male di queste persone che hanno agito in questo modo. Io personalmente non attribuisco alcun valore al voto, ma credo che se analizziamo seriamente la questione del suffragio femminile, cosa che finora non è mai stata fatta da questa Camera, ci rendiamo conto che se ci sono persone capaci di dimostrare una tale abnegazione, allora l'unico compito della Camera dei Comuni non è usare il bastone contro di loro, ma capire in quale misura è giusta la loro causa e agire secondo giustizia. Se alla Camera dei Comuni si è potuto tenere un dibattito di questo genere, allora deve essere chiaro ad ogni elettore disinteressato che la militanza non ha mai rallentato il cammino della causa del suffragio, ma anzi, l'ha sempre spinta in avanti per almeno un mezzo secolo. Se ricordo come appena pochi anni fa, questa stessa Camera dei Comuni trattava la sola menzione del suffragio femminile con disprezzo e indignazione, come permetteva che si pronunciassero gli insulti peggiori contro le donne che rivendicavano la loro libertà politica, come lasciava che i progetti di legge sul suffragio venissero accolti da indecenti risate e volgari battute. Non posso non meravigliarmi del cambiamento che la nostra militanza ha portato in così breve tempo. Il discorso del signor McKenna è il segno della completa resa del governo. Naturalmente, la promessa del segretario di Stato che i sottoscrittori dei nostri fondi dovessero, se possibile, essere ritenuti legalmente responsabili dei danni arrecati dalle suffragette alla proprietà privata, non è mai stata presa in considerazione. Si trattava in effetti di una promessa assolutamente senza senso e credo che pochissimi parlamentari ci siano cascati. I nostri sottoscrittori possono rimanere anonimi se lo vogliono, e seppure fosse mai possibile attaccarli per le nostre azioni, troverebbero rifugio dietro quel loro privilegio. Le nostre battaglie sono essenzialmente terminate e riteniamo fiduciosamente. Le nostre armi, per il momento, sono state deposte, perché non appena la minaccia di una guerra straniera è calata sul nostro paese, abbiamo dichiarato la totale cessazione delle ostilità. Cosa potrà venire dalla guerra in Europa, così terribile nei suoi effetti sulle donne che non hanno potuto fare niente per evitarla, così dannosa per le sofferenze che inevitabilmente causerà ai bambini innocenti? Questo nessun essere umano può calcolarlo. Ma una cosa è ragionevolmente certa, e cioè che il cambio di governo che farà necessariamente seguito alla guerra non renderà più necessaria la militanza da parte delle donne. Nessun governo futuro ripeterà gli errori e le violenze del governo Asquith. Nessuno vorrà più prendersi l'impossibile incarico di fermare o anche solo di ritardare la marcia delle donne verso il giusto patrimonio di libertà politica e di autonomia sociale e lavorativa. Fine.